La situazione sta diventando insostenibile. Era arrabbiato Francesco Ferro, capo del settore tecnico di Costa, quando l'11 gennaio spedì questa mail alla ditta responsabile della manutenzione. Ancora una volta, sulla Concordia la scatola nera era andata in fault, lamentava il manager nella corrispondenza ora agli atti della procura. Il 14 la nave sarebbe stata riparata a Savona, ma il giorno prima si schiantò davanti al Giglio con 32 persone ancora dentro. La registrazione della scatola nera si fermò alle 22:36, ma tutto ciò che era utile è stato acquisito, rassicura il procuratore Verusio. Agli atti però ci sono almeno altri due aspetti su cui si concentra l'attenzione delle parti civili: le mappe e la presenza di porte stagne aperte. La cartografia non era di tipo approvato, dichiara Simone Canessa, ufficiale di bordo, specificando come non fosse ancora in vigore l'obbligo di una elettronica. E ancora si legge a verbale come la prassi fosse quella di lasciare alcune porte stagne aperte per favorire il flusso delle persone al lavoro. Porte stagne chiuse subito, urlò quella notte il primo ufficiale di coperta. La società smentisce e ricorda che comunque la Concordia non sarebbe mai dovuta essere così vicina alla costa. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore.